Sono le ore 17:35 di domenica 29 dicembre 2024. Ultimi giorni, direi ormai ultime ore dell'anno, e naturalmente fioccano ovunque si posino i nostri occhi le dichiarazioni di ciascuno di noi, i buoni propositi per il nuovo anno. Si va anche per imitazione, si leggono quelli degli altri, si scrivono i propri, e naturalmente la stampa insegue questo trend, anche perché non sa bene che altro scrivere. Sempre tempo di bilanci, tempo di prospettive. È buffo perché anche la durata dell'anno è abbastanza convenzionale, e il fatto che finisca adesso, in particolare pensiamo al calendario cinese, noi andiamo dietro anche a questa ciclicità che condiziona anche i piani editoriali. Ma quello che un po' stupisce, devo dire delude, è che anche gli inserti culturali cascano nella trappola del timing precotto al microonde, proprio come se fosse il timer, e cedono ai più bassi riflessi condizionati. Ovviamente quello che non è andato nel 2024, e quindi ciò che non dovremo ripetere nel 2025, che cos'è? È forse smettere di guardare la TV, smettere di leggere i giornali, di abbeverarci dalle sacre fonti dell'industria editoriale? Oppure dovremmo tutti disconnetterci, no? Il famoso digital detox. Ebbene, anche aprendo Robinson, avevo appena speso il mio personale elogio verso questo inserto culturale, e invece Robinson ci è cascato veramente con tutte le scarpe in questo meccanismo abbastanza banale, mi verrebbe da dire, per cui le prime 8 pagine del numero uscito stamattina sono tutte, mi verrebbe da dire, attesi. Cioè la premessa è: ok, facciamo che l'anno prossimo ci stacchiamo dai social, quindi ci stacchiamo ovviamente dall'odio che si giustifica interamente all'interno di internet, ci stacchiamo dalle falsità, dalla disinformazione, che ricadono interamente, le cui colpe ricadono interamente nel campo dei media digitali, eccetera eccetera. E ovviamente, come si fa tutte le volte che si confeziona del giornalismo attesi, che, mi spiace dirlo, fa ampiamente parte della categoria della disinformazione, è andare a pescare studiosi, ricerche, libri, approfondimenti che confermano il nostro punto di partenza. Cioè il pensiero di chi imposta il numero di stamattina di Robinson è: ok, dobbiamo dire ai nostri lettori che bisogna staccarsi dai social, quindi andiamo a cercare tutti gli ultimi saggi che distruggono questo pezzo della nostra società, implicitamente salvando tutto il resto, a cominciare da noi che scriviamo Robinson, da noi che scriviamo per i giornali, eccetera eccetera. E quindi, soprattutto lavorando sui titoli, poi io sono sicuro che leggendo i libri ci sarebbero ragionamenti molto più articolati da fare, veniamo investiti da questa sequenza rapida di stimoli che sono sia un argomento da salotto, cioè servono appunto a rispondere alla domanda: e quindi tu che cosa vorrei fare nel 2025? Ma tornare alla mia sana vita, lontana da questi schermi, lontana da questa disinformazione, eccetera eccetera. E quindi sarai quello giusto, quello bravo, quello che ha studiato, non sarai un populista, non sarai un dilettante della politica, della scrittura, del pensiero libero, sarai una vittima di Steve Bannon, delle macchine della disinformazione, sarai una vittima di Trump, dei populisti, dei grillini, sarai una vittima, ovviamente tutto un unico grande bolo indistinguibile, dove dentro ci sono i Novax, ci sono gli antiputiniani, scusate, i putiniani, ci sono i terrapiattisti, è tutto dipinto con gli stessi colori, no? L'importante è che sia visibile questa sfera del male, con i suoi archetipi di riferimento, le sue etichette, la sua riconoscibilità, no? Bisogna costruirla, descriverla. Lo si fa attraverso che cosa? Attraverso quei media che hanno trasformato la generazione che oggi decide le sorti del pianeta e del paese, investendo questa generazione, quindi i quarantenni, i cinquantenni, i sessantenni, di che cosa? Di tutti i contenuti ufficiali dell'industria editoriale a partire dagli anni 80. Spero che ve li ricordiate. Informazione spazzatura, la donna ridotta a un mero orpello da sgabello per i talk show, per le trasmissioni sportive, nella migliore delle ipotesi, naturalmente, se ci ricordiamo per esempio di Drive-In. Ecco, tutti programmi televisivi, format, impostazioni editoriali create proprio da chi voleva cambiare il mondo negli anni 60, no? Non so se vi ricordate che gli autori, i vari Freccero, i vari Antonio Ricci, i giornalisti che hanno imperversato, no? I liguori, no? Che hanno imperversato nella TV berlusconiana degli anni 80-90, che hanno costruito tutti i modelli di riferimento della nostra generazione, sono nati in era sessantottina, si sono sviluppati e arricchiti in era catodica, in era catodico-commerciale, mi verrebbe da dire, e hanno loro costruito la cultura che oggi, con le tastiere, quella generazione riversa sui tanto vituperati social media. Poi sì, ci sono ovviamente grossi problemi, no? Che io per primo, di cui io per primo parlo e scrivo, legati alle piattaforme, alla pervasività della tecnologia, all'opacità degli algoritmi, alla tossicità di tanti meccanismi che però nascono dal capitale, non dalla tecnologia in sé, esattamente come nasceva dal capitale e non dalla tecnologia televisiva catodica in sé, il problema dei mezzi di comunicazione degli anni 70, 80 e 90. Però oggi aprire uno dei più importanti inserti culturali del paese per farmi raccontare qualcosa che davvero è andato a male anche dopo mesi in frigorifero, e cioè la solita storia che tutto quello che non va nel mondo è colpa di internet. Ma io francamente pensavo che, essendosi stufata forse anche la gente di questo racconto, magari due neuroni in più da far scattare nella riunione di redazione prima di decidere il tema di questo inserto, e per darci davvero forse la prospettiva di un cambiamento, di un 2025 migliore, magari forse a qualcuno sarebbe potuto venire in mente.